sta a fare il trovare Gesù, e la capigliava come uguale Gesù. Ah, beh, questo è una traveglione, ma non dobbiamo aderire. Questa è una travia. Si pone a Bocase e fuggiamo in Gesù, su Gaddo. Su, no, sai, in un fuggiamento, non è cosa l'ha raccontata questa. No. E già ma sai, no, qua, tutta di l'intendi a Bocase. Ma che cazzo ha questo? Allora se te vuoi si può un muro. Già ma sai, no, qua, e sai, non fu di ambogato, mi sa su che un piccolo vetto, abbiamo solo così che elettro. Come? Sì, elettro. E per dato. Ehi. E che si sta sempre fuori in una zona, compreso? Ma io mi sono mangiato giù qui di casa tua, mi sono pisciato quasi. Questo dottoreddo, questo daddo, con questo fuori strada, su pastore. E buppiende, mi pure questo salario in macchina, a Brescia, a se comincia a via, comincia come sulla striccata, verso sinistra. Buristava anche come? Di culo, non dico del niente. Cazzo, fumendo questa sigaretta per il vicino e sono andato a birra con questo glaxon impianato. Sono tutto in carrella. Ma che cazzo ha questo? Era bene sono una certa punta di mercantesimo, era bene. Ma dove si dà cazzo? Oh, dico dai, fui petterosi, io fui, cazzo. Giù qua Bairenne ha fatto una questo cazzo è mancante, su tutto, ma mancante, mera però non ho pa. La strada l'hai al matto, dici che la macchina ti sta facendo, sta macchina che sta patente? Boh. Ah, se lui c'era lì dove stavamo, quella macchina bianca che sta patente, che sta pigliato. La macchina in piedi da batteria su Molista, la papà, ma che è il profitto? Mi ha parlato vostro, da voi si era chiamato, da voi se, nel segno di impegno, il parato, il fugato ha fatto un rubizzotto dei tre macchettino, ha malettato, e non c'è nessuno, paura! Io non c'è nulla. E poi sono lì, questo frate di Tiledda, non per rientrare a Domo, no? Quando beh, andava praticamente nella moto su Bucco, su cui la tua enemese. Bucco di Bucco. Vabbè, il suo, se prima ultimo, non è che deve essere da Domo, deve scambiare la roba, no? C'era tutto, guarda, l'hai petto in Domo e non è rientrato. Oh, a questo punto, che il suo carabinese lo vuoi fare, ragazzi, non viene neanche voti. No, il suo ponte camedda è corrotto. Come si il suo ponte camedda è corrotto questa macchina? Tutti in tre, uè. Che fa di intro? Tutti in tre. Ehi, vado una cazzo, ma tra lui l'attento. Penso che fa di su ponte, non bevo su garrail, compreso da un'ala, che l'ha bettato un camion. Penso che mi siete dritto, dritto, mi dritto, un altro culo. E non è che bevo pure la radiazione, forse bevo bandoleo ancora. Caso con questa cantone, bandoleo, altrimenti c'è bandoleo. Penso che vigaia da... Allora, come interviene a tanto si trova che dai cametta, no? Mi sa che c'è la campagna Giovanni, non so come ti accomodo. Cazzo ogni buco, perché hanno una macchina in tre anni. Ma no, no, questa è la giusta la sorgente della Zaurita, ragazzi, questo non esistia ma con questo capannone. Non se ne commette fu prima. Oh, che dica ragazzo a tappetto con quello che ti mette rustica. A su bandolero, busa coppa, bandolero, busa marmitta, ne va la via pure a secondare. A manette, cazzo che riga io a manette ne parla, ma che già è rustica, anche una die, e ne ha pettito sul motore. Spigli tu mi, sul motore ne ha pettito. Ma che c'è rustica, veramente che dico, c'è una macchina che giocasse a griglia sdainanti. Vedi a tutto il anno, la si consolizza di su, con che è botto. con la paglia più la pagliola è sicuramente offerta per il portale. Ma il te cazzo, ma la come va sì. Mi puoi sotto radio si che telefonia la no. E giù da colonnina laterale si guarda. Bandolera, bandolera, bugas, ma c'è macchina. Una dia, così se devi mi vedere una passata bidda, praticamente, la sua cuppuca di cutto giutta, no? Sotto radio si mangia casetta, fate miau! E io sono a chi no, giù di fettiglio, ma lo controllavo una. Cazzo variato, così è come... E poi questa macchina ci questa lampadina sa dei bindi che cazzo, perché la lampadina non so fare più, sa da come. Non si deve un cazzo, la luce di guerra con un casino. Cazzo, come intendi, io ho un tanto intendi a me. Bambolero, bau, bau, cazzo. Allora, è un'altra volta che fa la sverso verso giunta lì, cazzo, per un modo di campagna, no? Che farà tu cazzo? Avevi lì a Giorgio sa puntana, aggiunta lì, frena ragazzo, e indietro sa puntana in terra. Ah, sta arrivi sul vigile sul bar, su casino e su via. E si vota una bottighina che non dovete più. Giulia si va bene anzi giocato mi pensavo al bar, no? Poi si è organizzato tutto, è pagato in bersaglio, è tutto ruino su quella macchina. Tasse al latte, il curu. Ehi, ce la fai a gaga, come da te un po'. Ah, su fea, quella macchina fu feissima. Sì, la bella risposta, già. Allora se c'è il suo passo. E il suo passo, quando la lista fa ghiattando, ma che io... Siamo noi un po' di figa di cazzo. Chiedendo isso, aí a salvar em putifica de gasto. Foi uma dica que me dá putifica de gasto, ele disse que é um anjo. Abanzado. E vai a coisa, sabe que se usa de tila? Isso é tílico de tila. Tili, tila, tili, tila, tili, tila. Non ricordo qualche macchina così. Però qua. E guasso su. Ho preso. Le picchie da cazzo e sorriso di questo cazzo de. Oi gorome. Oi gorome. Ma sai se le spot l'hai fatta prima o da così? 27 spot no, mi pare che l'ha fatto prima, ma è quello su 22 gabbat tutto questo motore l'ha fatto tutto prima e mi sono trigano quindi si era questa botta a casa per andare verso l'asso stava fuori da due casse buche vicina di Siala con due sorprese che fa fu mi si è ricordato buone ragazzi vi siamo anche voi buone ragazzi in ponte. Poi in ponte, chi entrai a casa con tre utili in questa macchina, le aveva messo a punto. Maria, pogari, date, come campione, le mi si lugare. Cos'è tu capire al bene su? Ah, bello, se la faccio. Ehi, bella la fatta in. Se la vola. Non lo so come giù per bicchiere e ci sono la Klondike poi a becchi con lui si subito questo casco del dico che bello che giù guarda adesso la via sono amici ma se li becchi ma deve scrivere danno lui danni vecchi ah, ma te cazzo mi piace tra la su e buco ordinare, ma questo fratello tuo, questo bingio, non ha più bido, non fai da più, se la ghiaccia, sa, come ti credi di una parolaccia? Non fai da più, di avvero. A parte la cosa, non hai? Beh, non dico, che fu ritesinare da un bebello sul ponte, fu creato. E le Beppe Contini mai te l'ha poi raccontato? Beppe Contini? No. Beppe Contini fu nominato forse, no? Doveva diventare come te Rambo, abbagliava sul film di Rambo, adesso va a essere che Rambo, si muoveva questa musica, pure mi ha dato una di questa... Ci si nera, ragazzo. Dico, dove c'è un altro? Ah, fa culo, ragazzo. Le Sassoni, Walkman. E scusate, quando gioco la squadra di tutto duo, tutto giù, come lascia una sacca in bichento, lo si può fare io, ragazzo, poi dopo che la ci ha preso passata a olio, sei dai, no? Una dica che fu carregando, ragazzo, non va mio, con su sacca 90, ma perché non mollare, ragazzo, l'ha pesichito, l'ha girato cicchina, boh, è Rambo, la giudia, non è più servito. Sono troppo argicina. Rango. E si è chiamato cosa affettas? Questo così è mancanza. Su che se berrette, te la sei compresa che sono niente. Quando fu biondo, questo si regala a bello, forse, no? Sia di succorso, cazzo, tutto allacato, tutto idrattato, cazzo. Ma lì passa nel mese di una sapore, se beve un metro di distanza. Però che la bisogna riuscire a sapere là, cazzo, è proprio in orizzontale. Tu rieni il dato. Mi ne dici le cose. Sono state cose strane a me prima. Compreso. È una tradizione, su corso, senza motivo. E non lo sai più che dico. No. E due no. Questo si è pesato di butto, cazzo. Se ti cotto, se ne ti cotto, su cosa è grafa nostra. Se ne è pesato di vino, è pesato un altro. Cazzo, vai, mi. Ha preso tutto niente, cazzo. Oh, poi mi fu, perdonalo, quando? E mi fu di su, perdone, cazzo di Serrene, nacchi, passate che desagricola, nacchi. E mi cuttono un pulla. A verde. E di un pulla non mi cutta isa verde. Un ragino a se stesso. Poi ci si dia cose strane. E so farlo, vedete che è quando sei stato a fare. So quando quando abbiamo su figa, su a destra fare nei primi suoro. Ah, e qua è. Bivu sempre fisso, fisso bivu su India Sagardas. Cambivu di Bodale Brancotala, che come te ripeto, su gente fuori, ho mostrato in palastro. Linea sa Garza, tu sei che tennero, cazzo per che dai nacchi, Garze, Garze, tutto viene e te via. Cazzo mi muso, mi non sei che tenne mi, ma mosso so, andi a trappare a me, mi da denizio, cazzo cosa c'ha. Vai a portare, ragazzi. Chi? Chi c'è nato, ragazzi? Tu non sai di cosa capita a desibisciare su di su, ragazzi. E sono stati chi si su quell'istotto che ha riparato dentro. Ma che per un pugno di dollari, tron tron tron, ma sa paese, Nardino. Ehi, a bocca, ma che per un pugno di dollari. Poi cazzo, continua a riparare, ma che in mezzogiorno di fuoco, cazzo. È una braia, cazzo. E tu rieni, urda. Cazzo, a paese ho riparato, non si ci attendono. Ehi, cazzo, anche per me pregunta, per un punto di dollari, anche mezzogiorno di fuoco, no? Che cazzo riende, cazzo, il dato. Mi ripica, ma poi col piano a me, mica col piano a prossimi. Cazzo, per esempio, che si incasciai affezzamente a cazzo una camicia di birra. Una camicia di birra. Che si cucchiana, cazzo. Ma, si viene da te. Tutta l'altra accusa musica. Alla sigla, non si mai. E tu non sei di sciadevole, tu non sei di sciadevole. Cioè, devo la bevuto il gruppo. Come diventa invariata lì? E pettullo. Ah, è. Gruppo. Non mi crea cazzo con suo forza, la presenza sul banco, tan tan tan, ma vende. Cazzo con un scelto. Come è variato a me? A lì? Ah. E variare su manicomio, una chicchella. Ma poi c'è tradino non giù, ragazzo, fu di blu. Cazzo che buco nella bocca sono andata, che ha lasciato la bocca sono andata in mezzo di strada, che se andava a passare olio, fu pensando che devo fare attendere, poi la bocca sono andata, che la tradino giù. E alle gare ha fatto il dirci la cabina. Oh, esuri, ma se comunque ci ho preso in cambio tutto, fu con lì. Giocone cazzo Bastiano, cosa mi cade via Kennedy? Io sviluppo una cosa come questa le piace. No, forse come ti l'occhiale, sono annitto, rimane a mia. Beh, forse gli altri. E io l'hanno parlato per il sabato in faccia con questo bugolo. Beh, avevi una Cagliari, lei ha fatto un finale. E sul finale se lo sei a posto, sai affrettare, su 30-55 ha fatto di baglio di vegetazione, no? Cosa posso affrettare di una biafra mamma, devo mettere il pughimbe. Ma chi sono quello di Caglia o va? Con i suoi Cagliari. Ah, beh. Ah, sicuramente cazzo si bruciava a metà sul finale per colpa che neanche noi frittagliani, in una biafra di due pughimbe, figurati me. Sì, infatti. Allora, Zuccone si è bucato un von, e ne ha bucato già la resistenza. E lui fa che andare, e che andare, e che andare, e che andare, e che andare, e che andare, e che andare, e che andare, e che e anche, stasera si balla, e lui dai, no? E dove vedrai, sento la bandiera gialla, boom, crack, un altro parlante gutto. C'è un uomo in regia, cazzo, scudendo che scritto in tele. E sta truccando le continue da suonare. Ma che ti vuoi un effetto speciale? Tutto questo, cazzo, guarda. Oh, Igor, me. Oh, guarda, tanto vuoi di mano, lì è un'ideruta. E che vai a sempre lui. No, no, io non credo a nulla, io sono conoscendo il volume della di mia. Fa via la gara, ti sono attenti che non lascia nemmeno. C'è a casa tutta chicina, Twitter bruciato, so. Mai te cazzo. Si compri la pigione a sega. Sì, ma abbastanza cazzo, forse magari resisti a riflettare, due moretta, ma non più me. Ma saprò non compare che lei ha di due saletta. No, chissà di lui, è su malede, ma non lui è deluso, non è c'è un dolino uomo su via verde a destra. Una uomo becce sa coppo. Ah. I due, su cazzo cosa enorme me. Ma. Bello. I due fudi. Poi una diata che non ve l'ha fatta più su qui. Si bruciava tutto. Se hai navigato cazzo da nel ciondolino una. Un cazzo finale quasi da un jukebox. Attendene, ma che questo qui giù era tutto collegato, no? E fu dal mese serata, stasera dilunghiamo sino alle ore 24:00/1 il chiesa su pulsante di cui l'amplificatore jukebox e lei a fuoco del trasformatore, che ha avuto a gente 20 timbe. Cazzo, Tu vuoi che ne ha fatto così basta, dai, ora non lo so. Lo vuoi, ma che lo dice su di te? No, si, vuoi dire. Te la sapina, te ne abbiamo fatta, cazzo, non c'era più come te paga. Alice, come te che l'ha finita per tenere la serata, in due fine. Su finale di televisione. E questo funziona io, su manco. Su riso, cazzo. No, io questa vuoi dire. Mi o comunque andai a forse in questa discoteca. Già la ricordo io, lì di fronte al corso. Un mago la testa la fa, lui fa la loro che fa il baile ai guardi. Ah, molti anni fa, ma è schierato. No, è molti anni fa che due butti. Quanto sono già come due? 30 anni fa, questo. Ma tanto, già potete essere tanto, già potete essere che voi si lasciate un occhio dall'allone. No, ma allora, Gubbe Cagliari, questo è un mancante, non è che voluto un progetto di chiave, fu un mancante invece. Chiamava se parlo di e Gubbe sta sul primo falendo, ragazzi, non è che mai termale, ti hanno caputo una piazza di 2 metri più gimbe. Cazzo! Una cosa, ragazzi. La colpa forse era dalle casse comunque. No, bintra nulla, banda tutta la cosa, banda. Bintra non una sega. Te cazzo. Non dovete fare delle gare, no? Voi si copia io a casa motivo, pure appena a seggio poteva succedere. E io, in una discoteca a Guadalupe, ho visto che sia tutto fatto con colonie di... proprio a colonia delle leggere di visione, cioè. Tutte così, mette a posto, uno con l'altro, uno con l'altro. Poi mi lungo su 2 ore. No, ma è no che non fu di no che lei ha fatto d'emergenza, cioè lì no. Allora, fai un tipo di televisione, San Filco, così via, la sua finale... a passe, compreso, a transistor. Isso è di cui perché momento l'alimentare, no? Il centrale sei sida, ti ha fatto. Lo lei era dello bovaglia da cavuni televisore puri, come se ne essere un bago mannito pedale, e lo pone lo punì alla vicina Sagascia, di Guddai, no? Va vicino a Sagascia, vicino su giù box di MV di su Zucca. E lo so portato tutto in fila, quello fino a ieri collegare questo salto parlante, questa musica, focus a me, no, bai ti bifare. Ma non se ne ha questo mai da me. Me lascio manco una bindighina a me. Già andai io, già si intendia di tutto. Cazzo, poi il focus fu fatto bene, eh. Però vai a finzamento a 20 gimbe, va a terra messo ognuno, numi, no, e non lo lascio bene a finzamento a 3 salto parlante, me. Cazzo, ci sono gente che ha fatto una serata, una volta, e non mi cazzo di nulla, nulla. Sono canale, con la maniera bulla sono Gesù di su cazzo di su di su cazzo da me stesso interruttore che sai di questa cazzo apparecchio tutti in alto lasciati. Ma solo perché andava a tre non ha cambiato la commutata. No, non ha cambiato isso, non l'hai accomutato, non dice ne Macu. Compresi che qualcuno precedentemente fossi, fu su stesso che fu brincato il fusibile originale, e poi tocca un fusibile da Gamper. Che facciano tutti in alto, ma il fusibile non si è interrotto. Compresi, scuda la stessa che ha facciato tutti in alto. Eso, riso. Si sente un boom allucinante. Cazzo, no, sono elettroniti con anche per una shadow soi. Annunciamo la serata fino alle ore 24. 24.00.01, permesso interruttore, buga! E cosa che va via? E lì invece un po' l'altro locale di fronte al corso, questi di Italia, no, sono un po' no, no, no, è pure la tragossa. No. Questa lì che l'ha comprata già così, quello l'ha comprata con un garrascino. E noi due vai alla finale buono meda. Ma me l'ha detto un paio di rio, tutti i muri, in mezzo quando faceva il palli, prima che avevamo detto qua. Non dico che si chiede alleato. No, il garrascino lo sei alleato. Ehi, ma per un pubblico, la telefona, la telefona, la cosa del palli. Ma sì, era un po' buono. Io dico che hanno andato cosa una meta. Forse tu, lì che te fu fossi, de macca. Credo che fosse roba valvola a me, la prima che hanno avuto. Come ti fosse uccidere mi due. Compreso. Mi fosse uccidere ma bifusi. E... no, ma io dai fusi, se lo cazzo, che... troppo di pisciaisci. Troppo, cazzo, troppo. Ma una tradire, cazzo. Se vuoi mettere un dico, questo dico brinca io ragazzo, sei incazzato perché l'ha andata in messo pubblico. Cazzo arrivi da giosso su dico allumato, cazzo un dico russo me. Arrivi da giosso cazzo e bifuti su. questa ragazza cosa, questa specie di palla stroboscopica, ragazzo che ha trovato nel pesce idro, come ti ha fatto? Si che cosa la fa la vaccina? Cazzo, su casino che ha fatto, questo pesce idro che ha doppio giù, me. Ma è una cosa, ragazzi, una cosa western pure. Ehi, quella sta la già, ragazzi. Ha finito pure, ragazzi. No, ma questo solo l'ho già fatto già pure, sì, quello è proprio mandicato. Ma da voi la nammino ligata, che ha comprato la coppa. Comunque andava molto quello, eh. Assutto. Oh, guarda, cremmi, micidiale, micidiale, sabato e domenica piena. Ti vedi che cazzo. Poi su bello, noi ce ne hai messo zero, no? Per preparare sa la pulita, tutto quanto. E per un gruppo cazzo di variato, mi stai dando. Finateria, cazzo. E come roba cosa già fai piatti così? Come te roba in questo senso? Sono altro piatto, o piatta. Come te. Piatta la tenna? Scusava il rischio delle piante a casa. Oh, vuoi giradico funi. Sono giradico, sai chi si ti funi? Quello elenco mi roba essa, cazzo. E anzi, veramente bifuni, sono giradichi BSR, quello di selezione. Ma tratti la figlia era, no? Lo dottor, no, non mi ha trovato vento finti giù via, la vera musica è tutta scarata. Ma bene a dire, cazzo. E mica sai a concorso a me. Anzi, fu pure bravo. Fino a lui, quello si era appesantito sul piatto, le ha su la gomma russa tutta. Cazzo di altro. Quella puntina, ragazza, perché si consuma da una, la quella che si gira, no, LPS 712, 715. La gira io, cazzo. E su così so dico. Ah, fumicidiale. Sì, ma li riesci si mela, come non servi più. Ora no, ho qui non sei questo. Ma per nulla no. Sì, no, grazie. Ma la trovo la fa. Lui. Come ci vorremmo già fare parlare a un locale a suonare, una discoteca. Sì, ma non entra nulla però il nome. Tutto spento. Ma pure fuori non capisco nulla di Salligna, Salivello, un buon nazionale. Ne. Non si è vestito. Ma qua la vagina rimba però. Poi c'è mai questa applicazione. O lo posso vedere qua, me da. Sì, non è bene. No, troppo casino qua. Fa palese su YouTube e proprio la chat che dà fatta figa al cazzo con tutto e metto su acqua. Sì, compreso. Ah, diciamo che con tutto in internet, sono un vasticcio di ventenni. Sì, a papà è nato, però è bevuto. Ah, fine ci bevo. Cappa da sette, i metti due, la riprende, non dato che la vuole in giù. Sì, Alicio. E poi riprende su famiglia da che rientrando. Ehi, lì l'abbiamo fatta bella serata comunque, che c'era il piede dei furi, un bel service dei Cagliari pure. E lui, che hanno già passato già a protestare, gli si chiude in un lugar di cosa che vedo, ah, fino a to. Che non capi nulla, no, di tutti i dati dei snitri, capi nulla, non capi nulla di luogo pure. Come c'è nelle perenne, come se mi ne tenete gli stipendi, il fatale, se la sabbia è tua. Hai ferito, hai ferito. Molto, molto, ci ha passato molto. Cazzo, ci vuoi vedere con su, veramente quello che fai a carpentieri, a Salvatore. Salvatore, l'impresa. Ehi, fu in gamba, a me, su questa Porsche, che è appassionato di questa macchina. Già lo vuoi no, così. E vabbè comunque poi ho dichiarato male ultimamente E non sono bisa, no, come si fa. Ma la Giovanna, non capisco nulla, no. Come te? Non dico, non lo so, io sono andato giù con la regione, perché a travaglio prima non chiamano più nulla. La gente è all'ultimo sgoccioli. Un casino. Ma non un attimo, ma ne posso mettere questa cosa. E questo lì si mi... E sì, è compreso. Ma adesso non so se lui è perciò. Non vinca, ma è chi tutto, che beh sempre messo. Purtroppo, qui lo finì. Ancora c'è da andare, è vero, ah, i tempo lavorano bande tutto, no? Non ti credi tasà, ma te cazzo pensa che dove andas a usi, tisi, uri, usi, salighera, tanto le potture e ci ha passato tesoro. No, ma è la faccia da voi che io già bene in salighera, si va, tanto si va qui. Vengono qua. È bruciato, e se dopo un correnziato con un cinese, un gialli stessi, sì? Purtroppo sono i prezzi, questi è... c'è l'azienda, ma ci sono sei, quindi molti lavori si fanno qui. Sono cinese, sono visto unico, che è un'impresa manna idile. Ah, sì, è troppa concorrenza. Se italiano si comporta male, quindi che vuoi, non si può, che so, non si può vedere hai c'è livello gioco come un esetto, vai ad attenuato e cancia, mi intende? Non si mata niente, quindi va, no? Riprende? No, no. Sì, dovrebbe essere facile. E io anche sotto la arriva alla fila di lì, nell'altro locale a parte di lì, di gruppi, dai, hanno fatto questo, Ma si riflessia, si cambia. Ma caspita, mica bella autoradio, bella mi in giro. Porca puttana, caspita, io a sette equalizzatore siete stato Shiba. Ma lo dovessi, detto. Cazzo bello, se sono io un po' bene. Paga fu posa a macchina, paga me, raga, che cosa, che ha fatto la di quello più mararu. No, ma non ho avuto tutto quanto. Allora che siete funzionando, ti funziona meglio l'ultimo anno, si integrato, circuito integrato. Sono più fu tutto quanto circuito integrato. Mica se ne già una pagina di dorso. Non mi lamento manco deo quanto, cazzo una papata in piatto in bidda iso, maria, compreso, ma parista di davvero mi dando. Poi vorrei ragazzi si che rocca io la macchina e tutto. Io ho ricontrolato su quelle cose, ho visto un autoradio che sta facendo. Cosa fanno? Non ce lo dico, lo dico. Mi dà ancora in vendita pure. Ehi, ora mi vuoi, tutto in ferruppa. Sono diventato le app di questo suo radio gas, dove l'appo? La vibrazione, non mi date valva. A due. Sì, andate a due. L'appo se l'appo è alimentato giù, se la piga dai due che ha 300 giochi in banda. Sicuramente sono una mano bene. Sì, va bene, sì. Sì, comunque immagino là, come essere stati usati sì. Come deschiato, a tragoia, con le immagini che la fai di un testa. No, non ti credo, la binea è più bella di tutto. No, Tore, binea è una serie americana che fumi cazzo, con loro me. Comunque fu una derivazione di 2002, fumi penso una serie cazzo di pecciali che ne ha battuti sul primo campionato da Bidda, no, questa magliana è più bella su Technics pure. Fa sapere. Cazzo, non mi lamento quanto un milione lo siamo pagato. Compreso. E sono pescato le funi, uno si chiama Mossettato, che sei una 70 kg su, ma bello mi. Cazzo, questo è già un buono già. Ma una cosa ha pagato quanto una macchina, vero mi? Cazzo, quanto costa Iana. Un gatto di questo professionale, e poi in più come un tecnico, che si quanto la gatta, ma 500 euro, no? Quello che si ha fatto un milione. Questo costa 8 euro e non fa. E fai questo di 1000 euro, da. Fai questo 2 milioni. 2 milioni di danni. Quello che è, matto un milione, ma dando però. Perché ci prende la produzione professionale, lo più altro. Ma lì che si interviene, già Torrens, mi pare. Proprio già Torrens dei giochi. Ma cazzo. Bobo. Controllare la città, il centro locale di città, lì a Vietto, cioè quello. Io già dico che era già semplificazione di Giumalede. Però è che è un uozzone, tipo. Ah, per fare Giumalede, ragazzi. Io già dico che era. Vado una vita ai cose in questa domita, tutto furriato, adesso tutto furrati. Ma le specifici che servono. No, assolutamente. Assolutamente, non lo conosco proprio. Non vuole, non vuole. Ah, non metterlo in loro. Ehi, vabbè, ma cosa c'ha? Non fa di finale. No, cascia la finale, se cascia giradici furriato, quello. Ma chi è? Questo leone mio, quello. Insomma di Marocchina. Non è. Con quello volentino ci ha detto dal conto. Boh, non dico se è questo. No, su una di Pinnichedda. Ehi, furono sozio, isola, isa tutto. Sì, sai che brava adesso, un paio. Sì, ma sicuramente è lì che vorrà da me, ma cosa è? Tutto frase può essere. Tutto frasi con no. Vada ancora. Pisa sa di finale se tu venne 30-55 avete dei bucemi, sarà sempre l'ambiente, no? Forse fine una cosa su cui intercambiabile c'è un trend bovente, cosa può c'è una che sta avvitato, cazzo? C'è da toccare la casa. Un casino, è una fatta su che mi ho avuto una chiffetta questo loco. Poi una bella dia che ha bocato tutto e ha nascito un impianto serio, un nominamento che lei ha battito, poi c'è un ciondolino che l'ha battuto del vola. E sono a bene questo, eh. No, ma quando finale? Allora, finale se abbascio peggio, non la gatta X. Se ci aspettano un finale, perché è al minimo di 2 milioni, mi danno. Beh, già dire, comunque hanno fatto Maria di lei alla Russia. Maria, ci ha aspetto, no? Sì, un impianto robotizzato, che impianto 1 milione, beh, appunto, mi sono miliardo. Ehi, a fare tutto, compreso su con l'auto, la discoteca, il tuo macchino, un milione. Mi ricordo quel fatto che bello che era, da quella che ha avuto l'inizio, sette euro. Le mie cose non hanno 90. Ma perché me la primo, con la somma con 20 anni prima, no, 20 no, aspetta, 20 anni prima. E io Maria che gli avevo fatto che era, a via. Primo, su 75, 77, compreso. Dai, è una di chi ne hanno, non mi. Comunque, poi fai a largo da ora. Non ti cerchi, prega, un po' la sospensione. Ah, tu sei buono, buonissimo. Però poi su fumo, usando su fumo, io dentro questa discoteca, l'ho già tutto gravato. Da, un po' per io. No, ma lo sappiamo, non so se io ho un traffico che andrà, mezzo andato. No, ma quando mi dici che a fumo meglio è più per me che non è manutenzione, si pagano una vicina. Ragazzi, sono paurosi. E già dico. E sa cosa gli ho fatto a Ene, pure era che l'anno. Finale, finale 1-2 a Cina, la cosa costa tra due a casa, sta finito, sta mannando di quelle grazie di finita. Se lì ha fatto fattoro di la grandezza uguale, dai. Se no, non è finita, sa mannasa. In un angolo, sotto, mezzo giuro. Ello, ci viene d'abba. Se casca, la finita. Confurriato tutto, confurriato. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, un edificio distrutto. Sei mandato. Male con sé, questa cosa, né, da Verome. Vabbè, comunque, secondo me come in teatro la fate il migliore del biglietti, sicuramente. E vabbè, però no. Non accampavano, non manca appena accampato questa discoteca. Ah, adesso lo posso stare non fa mai. Che qui è andato un po'? Stavare un giorno di girare, la tua punti, la tua e maniana, che tutti i soldi ti porta via. È compreso. E ti andai da lui che andava. Oh. Comunque se vi picco il canale vuol dire su Figalt, in vita proprio come te Figalt, cioè su Malede, senza acqua lui, Figalt Malede, di su cazzo. Su più pannaglia era comunque fu su Figalt, a livello proprio da ballo giusto, non mi ci credevo fare dare. Cazzo può bere in pianto, ma che compagno, e chi ce n'è di chi ce n'è io, di cui, eh. Cazzo, no, questo ce n'è forse. Voglia avuti bene, bene fatto. Armati o mi avuti, mi piace armati o questo finale. Ma più bello che avete con la discoteca Bologna, più bel piatto, per una discoteca che tu li avuti, sicuramente. Ma tu hai nemica, come finali, come altre cose, quali da loro grafici, lo si usano solo Maccaene, lo finale quanto di piazza con lo sol, il coso fondo. Se li può far bene, tu come casa in altri momenti, via, la casa non si può andare a posto, nelle televisioni. Tutti i belli li facevano di 8 mila. E poi c'erano messi su due ruote. E non è bene voluto, ma qui sono i altri piatti, dove li hai sporato? Sì, no, c'è una bene voluto. Poi, a prima parte, la prima casa delle televisioni, l'ultimo stagione. Sì. Sì, che vedi, c'era il studiato bene, il tipo. Che non c'è, non passava il sub, lo su l'altro. Ehi, sicuramente prima era a Valgo. Quindi era sicuramente a Valgo. Tu c'era belle qualizzatore, non va mai di lungo. Io pure, mi ripeto quanto fa, sono in città. No, ma è no, però, i su Vigalto pure, i scenari a cazzo. E si entrava più su mi ne accaddu vicino a su cactus e su sole covente. E su soffrendo, già lo cazzi te vola. Troppo bello il Vuxlimbus. E i soldi non si vanno bruciati invece per la soffrigliola. Ehi, ma questo fu bello me, cazzo! E poi questo progetto che lo dobbiamo ristrutturare tutto, invece poi anche come lo pagano a parcheggio, boh. Ma cos'è? A popola ma. Bello, ma è la fuoco. La cosa, porto giù. C'è un dolino bevuto. Era bello, era porto fuoco. Ma, te cazzo, perché era via questa cosa. Oh, i gurumi. La storia, i finali, attaccati così a loro. Oh. No, comunque il Figalt è più giusto, eh. Il Figalt è un bel impianto. Non dico che cazzo vi va bene a partecipare ai due. Proprio non mi lamento. Cara radio. Compreso. Non va a giro. Ah, fu bello io avando. Vabbè, se non fanno niente, non fanno niente. Te va. Se non cadinari, te cazzo vai. Ah, ma scusi, non è solo così. Ma che fai qui? Naturalmente sulla la vipero. Sì. Questo è venuto una cagata. Ah, una tenda tu. Ah, la come se la testa è un bello. Non me la uno fu di una tenda. No, fa con me, c'è una scelta. Ma c'è una scelta. Ma è una cosa pastorazza, fu. Sembra sempre un accampamento, ahia. Ma entro un poco, beh, se cadura pure in terra. Guarda tu. Sempre più per un locale. Allora, dovrei fare bene questa cosa. Sei cazzo. hobby su buono. Che la maione. Sì. E mi rifilai andavo avuto io figlia. E tu ci filai con chi è? Mai te lo lono, due là con questo qua se lo lono deve essere chiusa lame. E fa, gli è stato. Mai te lo lono, mai. Su chi ha fatto tutti i giochi, sono malede in altro luogo, non bivù, lo lono, ma che si chia. Fu Zuccone, Zuccone fu su mezzo. Non si chiama così questa botta, però lo faceva suonare. Cazzo, vi chiede, sa, come te mi sia sobrano, tutto un casino. Giù, diria pagogu. E sono di variati, ragazzi. Variati completamente. Diria pagogu. Se vai a rallentato, vai a macchinare. Oh, vedi, era giù, fai la sostrazione, giù, questa canzone andando, voi più bifuti, e te li codeo, vamos alla playa, e su giù, poi vai a passare, il partito entra in un pare, no, entra in un pare, bandolero! Praticamente, questo passaggio, questo remix, bandolero, e cazzo ce n'era quella trammella. Quella canzone stiva, vanno già la playa eccetera, non sai che ha pensato che era il cambio di uno zero. Abbiamo un cotto sul dente, che non è che vuoi di fresco. Cazzo che si buffa io, ma la cosa fu da fuoco di Russia. Cottura fu una fuoco di Russia, una cottura a me, e sigaretta bollente, aiaia. Ma, denaro qui. Cazzo si chiede di Casciaiana, che schifo. Vedi la fattura. Senti, se non è la fattura di oggi, se ne cai guai. No, voi questo zuccone che parte in continente, voi torrare, vrei amore e me. Ehi, già fatto tutto, vediamo due cose. Come mannetto, sempre dal bello. Sì, hai fatto un bello. Appunto, io vedo questa conca, lui qua non abbiamo portato Bucussumi, però non martiano. Già me lo ricordo io, ma non ricordo, insomma, noi che un cuore granché. Ma non ti comprendi a nulla, ragazzi, ma quindi era, anzi, fu bravo, ma proprio non è mai fatto messo. Si inventava, va. Si metteva sul brano, comunque denaro qui, vaga di vecchia sergente, vaga da re, meta, meta. Improvvisamente quando funzionando so, di questo mi lamento di sicuro, quando funzionando sul brano più bello, no, che veniva da Pinocchio, tu, stava pure una cosa, infatti, Pinocchio, ti hai immaginato Pinocchio? C'era un po' più giusta, la musica giusta. No, che lo punia adesso come da Pinocchio poi, adesso entro qua che punia da, è una mala cazzo quella famosa, de relax couture, de, ma non vabbè, non metto, no, questo relax che punia a me da. E pure tutto il minestrone, no? Però si difesse hangare, non bella latte dove si difesse hangare. Cazzo, non è che non ha dicuto una radio a conca. Una radio. Una radio che usa radio portatile, ecco, a conca, non dico, boh. Dai che c'è il suo volume, lascia il suo volume, no, che non intendia. Tu non mi ascolti una radio, no, che come intende? Tanto la bolende, Gesù Maria. Come intende? Ma lì che si fa a me, da? Questo ma che si muore, se lo fai a me. Le bucaia sempre, ovviamente. D'Arculino, così, in prima villa. Guarda Villa. Franco Tala, Gigi, Gruppo, tutto ciò Maragana, dai, in cui è, tutto quello che sto fatto. Beh, pure la forse, me. Deve sorriso, cazzo, la roba, la pace a Gai, cazzo, la western. Ti puoi allontanare, mi è così nativo. Io subito mi canale ma cosa male, ma cosa mi io sto credo so si cudia una cassa di tutto giocata a taglia a me tu buffa io ragazzi ma è voluto un caso per te invece mai ci vedo sono nuda divertimento e mezza si sì, va bene niente bignane a mela però sempre cazzo che la veniva sempre passo fatto tutto d'accordo tu vuoi cucus tu vuoi dai che vuoi su più bello tu cazzo la femmina fino a come sei con d'acca di calcio che zona eccetera buh sabula Savura, Savura, voi anche sono carabinieri, sono carabinieri, capite, sono carabinieri, bisogna controllare, non quasi, prima di sicurezza che sono in indice. E, questo, sono carabinieri, anche lei, passi dopo, anche, quello che monta in indice. Non quasi, no, potete non, e poi ti vuoi in, in squadra Pippero, non hanno combinato, su Mattesi. E non hanno combinato, pure, pure. Qualcuno l'ha lanciato per iniziare a dare. No, ma se mi hai avuto, no, io è successo, io è successo. No, tranquillo, non c'è più da montende. Ehi, io dico, beh. Ma non sono di due, no? Ehi. Per loro pure. Dai, là, questo è dai, là. Ma tu devi dire, prima di tutto, insomma, lei devi dire, sapula, cioè, i suvigalt. I suvigalt, cazzo, vuoi western, eh? Stava forte, ma forte, me. Come puoi fare Iana? Come puoi subire bene idea, ne vuol dare? E beh, e negli altri paesi lo accena. I pausi, cazzo, pausi, dai. Ah, usi mi danno amico mio, non dico con voi, solo i vetti posso travagliarne con Mauro. Fu bravo, come te tecnico. Si è preparato due finale, ha fatto questo 7K. Infatti si azzente, ha capito che sono bene. Scane a me la usini. Tu non so fai, non sono sui ti reggi, poi sono stai muri. Augini era quella di Sorella Alfara, l'ingresso, no? E io non dico che ce l'ha di due, Mauro. Cazzo tu, bravo me. Quella andava lo stesso. Cosa fu bravo, ha fatto un bello finale, di cui. Bravo. Preso. Un bello finale ha fatto e lo va a pompare. E i bugiardi sono avanzati, uno tecnico più preparato. Vabbè, base alla testa. Ma purtroppo, così è. Se io vado con i dati, trovo i paesini al figlio. Sì, c'è un casino. Un casino è come... Comunque qui, su se si tirano a base. Vedi al campo, no, per andare a scolare. Tutto, tutti i finali di frani, già pre-finali, non sa che cosa, ragazzi. Beh, i due cominciano a dividere sul stadio, no? Che ne erano in parte, di cazzo d'Europa, però non so, poi dopo di... Alla fine di cosa è stata la chiesa, vedo qua, e vabbè, ma abbinata bello di servi sa voglia. Ma finale chi non lo bugia a fuoco, il ragazzo minare. Sì, sì, qua. No, va una porta, con un'altra grande. La finale, poi mi fatto cazzo. Applicare l'opera, quindi la gioca. Sai cosa sono italiana? Quelle che avevamo su, poi avevamo con le pulizie. Le davai, è un mix americano. Hai cercato su Behringer? No, avevo il capo di non era bene. Un attimo, cosa dai? Ah, è appunto un pesce, ho capito. Ho compreso quale idea. Però infatti sembra sul livello un po' pagliato a poco, ho un pagliato. Ma è stato bellissimo, ho iniziato dalle 7 fino alle 4 mattine. Già, una bella di impianto. Sì, e io, il coro mio, questo. Ma guarda cosa ti uso, non strana la cosa. Oppure ci siano delle giovane, due cane, se chi entra in tro, cazzo, e se chi non si decina bizzarro, chi entra in suffica, altre cazzo. Questi due cane, se cominciano a girare mezzo a vente, su Isi, su Diega. E fu mi so cane di suo padrone. Nessuno chiama nulla. Quello che ha detto sicuro c'è un posto di Zona su Conato. Ma non c'è padrone, c'è padrone fu bello che fosse mia. Compreso, c'è padrone sul locale. E lui ha detto che era idos, no? Tutto viene, ragazzi, guarda. Fanno questa musica del ballo canino. Ehi, la combina Iana. Lei combina Iana. Erano delle stagioni così. Non per i propri discoteche, ma delle strade dove divertiva allora. Ma è stai amico. Ehi, compreso. Immagino essere. Pensavo che ti rimpoglio la fai tutta, no? Come? Forse ti riferirà la fai cattivo, ma basta, ma ti verrà. Ma io? Se sei buona, sarei amico. Ma, certo. Pure anche tutto, è più bello. A nulla no, non vai a balordos, non è che si è più balordo. Sono messo con cada cazzo, con l'iniziativa, poi la gente arriva all'ultimo punto, quindi come ci sono i parenti della Western? E che ti fanno loro? Sanno di questi e quello si fa? Sì, me ne frego. Sei sempre la tua e come ti cambia? Me ne frego. Me ne frego altamente, me ne frego. Ma non è che canto me ne frego, ma che cazzo mi interessa, poi me ne vuole fare tutto. Fai che bene, va buta. E ti dimmo, ci sentissimo. Sì, ciao. Ci sentiamo, ciao.